Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, siamo al venerdì, insomma anche questa settimana è volata via. Noi siamo qua già a vostra disposizione, il nostro sommario è pronto, ma prima voglio ringraziare Paolo Corleone in regia alla parte tecnica e Laura Vanossi in redazione. Andiamo! Buoni propositi, dieta o attività fisica? L'ora della nanna. Un pizzico di ottimismo non guasta mai. Provare per credere. Beh, oggi non potevamo sottrarci, d'altronde è l'argomento che tiene banco in questi giorni dopo le feste. Ognuno di noi infatti si trova a dover fare i conti con i chili di troppo che abbiamo messo su dopo pranzi e cenoni, e la domanda che tutti ci facciamo è: come rimetterci in forma? Se rimetterci in forma, perché molte persone dicono vabbè dai, poi prima o poi cambierò idea. Di questo vogliamo parlare insieme ai nostri esperti. Intanto il nostro numero verde, perché vi invito subito a partecipare, a raccontarci come pensate di affrontare questo nuovo anno in termini di salute e di benessere. Abbiamo detto tante volte che la forma fisica, il non avere tanti chili di troppo, non è solo un problema estetico, ma è proprio invece qualcosa che fa bene alla nostra salute, quindi non si dovrebbe ingrassare troppo, proprio perché poi perdere i chili è difficile, ma di questo parleremo. 824 0024 se volete già intervenire. Intanto in studio, come ogni venerdì che si comandi, il dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti, auguri per un anno di grande benessere. Medico sportivo, responsabile del centro sportivo DDS del Settimo Milanese, ma in linea è tornato a trovarci, sono molto contento. Al professor Michelangelo Giampietro, che è medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno e buon anno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, dottor Confalonieri, affrontando, dobbiamo subito raccontarci un po' e dividerci i compiti, no? Allora, io a lei affiderei la forma fisica, però dal punto di vista dell'attività fisica, quindi quale sport praticare, in che dosi, come combinarlo magari con altre attività sportive per rimetterci in forma, ma io aggiungerei anche restare in forma. Bravissima, infatti è il compito un po' più difficile, ma abbiamo già centrato il problema. L'attività fisica serve soprattutto per restare in forma, quindi nel nostro caso magari per ottimizzare gli effetti di una dieta o di abitudini alimentari più sane. Quindi, volendo lanciare subito un primo messaggio su cui poi i nostri ascoltatori potranno confrontarsi, io mi iscriverei al partito del professor Giampietro, cioè fra dieta e sport. Intanto scegliete la dieta, perché sarà la più efficace nel farvi perdere i chili di troppo, nel rimettervi in forma, ma contemporaneamente imparate a fare lo sport bene, cioè decidete quale fare, apprendete la tecnica e magari fate quel minimo di lavoro preventivo per cui lo sport non vi farà male. Così, passata la fase più significativa per la dieta, potrete ottimizzarne gli effetti cominciando a fare sport in modo regolare. Quindi in questa fase, secondo me, bisogna imparare a fare sport o reimparare a fare sport più che farlo. Professor Giampietro, tante volte abbiamo detto che sì, la dieta è fondamentale, ma è importantissima, per questo il dottor Confalonieri dice mi iscriverei al partito del professor Giampietro, quindi riprendiamo uno stile alimentare corretto, ma dobbiamo comunque fare attività fisica, perché la persona magra, senza chili di troppo, che non si muove e quindi sedentaria, rischia quasi quanto la persona che ha qualche chilo di troppo, ma invece si muove, fa attività fisica, è vero? Sì, tranquillizziamo tutti, non abbiamo intenzione di fare nuovi partiti, ce ne sono pure troppi, insomma. Però al partito che si prefiggesse come obiettivo quello di dare salute e benessere a tutti quanti noi, sicuramente aderirei. Ma dobbiamo tranquillizzare chi ci ascolta, innanzitutto dal punto di vista, diciamo, dei tempi. Diamoci dei tempi abbastanza tranquilli per recuperare quella condizione di forma fisica e anche il peso che avevamo prima delle feste di Natale. Questo vale in tutte le circostanze, ma in particolare in questo periodo. Non occorre avere delle frenesie di pensare che in una settimana bisogna ritornare immediatamente al peso precedente. Prendiamocela tranquilla, abbiamo davanti tanto tempo. L'obiettivo, per quanto mi riguarda, io dico sempre, l'importante è arrivare al 25 dicembre dell'anno successivo, quindi di quest'anno, con il peso che avevamo il 25 dicembre dell'anno prima, perché vuol dire che siamo stati attenti e siamo riusciti a rimettere tutto in ordine. È chiaro che se parto da una condizione di sovrappeso, l'obiettivo dovrà essere più ambizioso e perdere un po' di chili in più, però tutto con molta gradualità, ricordandosi che la dieta è sicuramente importante, sicuramente efficace, ma fa bene, ma per far bene deve essere fatta con giudizio, con cautela e con la dovuta gradualità. È come l'esercizio fisico, non si improvvisa niente e dobbiamo fare tutto con molto raziocinio, con molto buon senso. Quindi passetto dopo passetto, e noi vi accompagneremo 824 0024 se volete intervenire, se invece, come state facendo, preferite scriverci 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso è ora di andare a nanna, è una frase che tutti noi genitori pronunciamo ogni sera ai nostri bambini, anche ai nostri figli, adolescenti, e lì magari abbiamo poche probabilità di successo. Sappiamo che con le feste questo ritmo abituale è stato interrotto, insomma con le vacanze si fanno strappi alle regole, ma adesso che siamo tornati alla normalità, le scuole hanno ripreso e hanno riaperto i battenti, torna di nuovo l'impegno ad assicurare da parte nostra di assicurare ai nostri figli le adeguate ore di sonno. In linea con noi abbiamo il professor Oliviero Bruni, che è responsabile del Centro del Sonno per l'età evolutiva dell'Università di Roma La Sapienza. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie a voi. Professore, si dice il sonno porta consiglio. In realtà le ricerche dimostrano che il sonno porta tantissimi altri vantaggi per il nostro benessere, soprattutto per quello dei nostri bambini, in termini di salute, ma anche di attenzione, di rendimento scolastico, di umore. Sì, assolutamente sì. Diciamo, in linea generale, quando c'è una deprivazione di sonno, la prima cosa che noi tutti abbiamo è un cambiamento dell'umore, nel senso siamo molto più nervosi, più irritabili, meno tolleranti. Questo diciamo nel breve termine, se questa cosa di deprivazione di sonno si prolunga per un periodo sufficiente, abbiamo tutta un'altra serie di conseguenze molto più importanti, tra cui appunto la perdita dell'attenzione, le difficoltà di memorizzazione, e quindi disturbi dell'apprendimento scolastico per i nostri bambini. Insomma, quindi per i bambini è estremamente importante assicurare un buon sonno. Poi a lungo termine, se noi prolunghiamo questa deprivazione di sonno, i bambini si ammalano di più, cioè c'è una riduzione delle difese immunitarie in stretta correlazione con la deprivazione di sonno. Quindi ci sono tutta una serie di conseguenze molto importanti collegate alla deprivazione di sonno, specie per l'età evolutiva. Professore, quante ore di sonno hanno bisogno i nostri bambini per crescere bene? Ecco. Guardi, per crescere bene si dice che intorno alle 10 ore almeno in età prescolare. Sì. Cioè per tutta l'età prescolare. Quello che si diceva un tempo in realtà non è più valido. Noi vediamo dagli ultimi studi epidemiologici che i bambini di oggi dormono molto meno rispetto a quello che si dormiva 30 o 40 anni fa. Probabilmente adesso abbiamo delle indagini più accurate, quindi forse questa differenza è inferiore, però in linea di massima i bambini di oggi dormono 1-2 ore in meno rispetto a quello che si poteva dormire 40-50 anni fa, e anche gli adulti la stessa cosa, insomma. Quindi molti dei disturbi che noi vediamo oggi nei bambini potrebbero essere in parte collegati alla deprivazione di sonno. Professore, ma lei ha una ricetta per aiutare i nostri bambini, e quindi soprattutto noi genitori, a riprendere il passo, a riprendere il sonno? Che cosa si fa? Guardi, per riprendere il ritmo bisogna cercare agire in prima, nel senso noi dobbiamo cercare di far riadattare agli orari scolastici i bambini in maniera molto graduale, cioè anticipando leggermente l'orario di addormentamento e l'orario di sveglio la mattina. Quindi bisogna fare in maniera graduale, 3-4 giorni prima si comincia già a prepararci. Se questo non è stato fatto, specialmente negli adolescenti che hanno più magari difficoltà perché tendono ovviamente ad andare a letto molto più tardi, si può utilizzare per qualche giorno dei facilitatori del sonno, insomma, come per esempio la melatonina, insomma, per qualche giorno si può utilizzare per cercare di riaggiustare i ritmi biologici. Professore, un messaggio che ci arriva da Alba: mio figlio adolescente dorme pochissimo, lo lascio dormire molto la domenica, può in questo modo recuperare il sonno perso durante la settimana? Assolutamente no, cioè il recupero del weekend è tipico di tutti gli adolescenti, però il problema è che il recupero del fine settimana non riesce a compensare quanto sonno viene perso durante gli altri giorni, e durante gli altri giorni, la notte proprio, i bambini e in generale gli studenti tendono a memorizzare quello che hanno studiato, per cui va da sé che se dormono poco non riescono a memorizzare e quindi ad apprendere, per cui è meglio mantenere una costanza in qualche modo degli orari. Quindi sempre, con un po' di crudeltà, anche la domenica mattina li svegliamo presto? Si sveglia, ma sì, non sempre prestissimo, in relazione al fatto che durante la settimana poi deve essere regolarizzato il ritmo, cioè non dobbiamo far deprivare di sonno per tutta la settimana e poi il recupero non c'è mai. Se noi perdiamo una notte di sonno, abbiamo bisogno di 3 notti di sonno per poter ristabilire il nostro ciclo. Ecco, allora teniamoci questo dato a mente, perché prevedo litigate furiose, soprattutto con gli adolescenti. Intanto, professor Bruni, io la ringrazio e la saluto. Mi raccomando, buon sonno anche a lei, perché giova anche a noi. Assolutamente, a tutti. Buona giornata. Grazie, buongiorno. Pronto soccorso. Dai, che oggi ci rimettiamo in forma. Dottor Confalonieri, come dice sempre lei, ha visto che anche il professor Gian Pietro, mamma mia, le ha rubato la parola. Sono orgoglioso. Allora, io però vorrei sapere, perché per chi si occupa di salute, questo è veramente un cavallone di battaglia. In linea con noi abbiamo il direttore di OK Salute, Eliana Liotta. Ciao Eliana. Ciao a voi, buongiorno a tutti. Senti Eliana, si dice, no, spesso che chi predica, bisogna vedere che se tu predichi bene razzoli anche bene. Che cosa stai facendo per iniziare l'anno in ottima forma? Guarda, intanto ho messo 2 chili, lo ammetto, ho messo 2 chili durante le feste e quindi cerco di regolarmi a partire dalla colazione. Io la colazione la faccio sempre, seduta a tavola con calma, e faccio una colazione sana, quindi uno yogurt e poi 2 biscotti integrali e la mia tazza di caffè. Sentiamo il dottor Confalonieri se ti promuove. Guardi, sì, che lei sì. Sta parlando col direttore di OK Salute. Assolutamente promossa per ora, siamo solo alla colazione. E poi come procedi, Eliana? Poi cerco di mangiare a metà mattina, in genere mangio un cracker integrale, così, una cosa così, perché la do ai miei bambini come spuntino e quindi lo prendo anch'io. Certo. E poi il pranzo a mensa, quindi mi devo un pochino arrangiare, cercando di capire quello che c'è. In genere mi oriento su un piatto di riso, per esempio, con olio parmigiano in questo momento, una fettina, e dell'insalata oppure un contorno di verdure cotto, e poi sempre immancabile la frutta. Sì. Mandarini, se ci sono, in genere pere, quello che trovo. Eliana, è un po' di movimento? Lo riusciamo? Ah, guarda, magari. Io per adesso non riesco perché ho 2 gemelli di 2 anni e mezzo, che mi prendono un sacco di tempo, quindi il movimento che faccio è portarli a piedi ogni mattina all'asilo. Prendiamo la metropolitana, facciamo un tratto a piedi da casa mia alla metropolitana e poi un altro tratto a piedi dalla metropolitana all'asilo, e così riesco a fare una mezz'oretta di camminata al giorno, però senti, poi devo rimettermi in carreggiata, ma lo farò dall'anno prossimo. Senti, adesso aspetta che chiediamo anche al professor Gianpietro, ma mi sa che tu sia super promossa, fin troppo. Professor Gianpietro. Tutto bene, complimenti. Complimenti, no? Sì, va bene così, bisogna cercare un pochino di spezzare con un piccolo pasto più sostanzioso la metà mattina e metà pomeriggio, solo quello. E, anche con degli alimenti che ci possano aiutare a ripristinare una buona condizione di salute. Abbiamo abusato forse un po' nei giorni delle feste con degli alimenti troppo ricchi, più grassi, forse in questo periodo sarebbe opportuno aumentare il consumo di frutta, di centrifugati, il consumo anche di verdure e perché no anche di alimenti in grado di ristabilire, ripristinare il corretto funzionamento del nostro intestino che ha avuto, diciamo, un piccolo scossone, un piccolo trauma dai pasti abbondanti del Natale. Quindi io suggerirei anche per chi non ne fa ricorso di aggiungere o per chi già li usa di aumentare il consumo di alimenti probiotici e prebiotici, quindi diciamo soprattutto lo yogurt, i latti fermentati che servono in qualche maniera a ripristinare la flora batterica e quindi a darci anche un senso di maggiore benessere, anche perché un buon intestino che funziona bene facilita il lavoro di tutto l'organismo e lo difende anche dalle infezioni, anche quelle stagionali. Certo. Eliana, sul numero in edicola, qualche suggerimento utile? Ma una cosa che noi ripetiamo sempre, ed è un trucco facile da seguire per chi non vuole prendere peso e in generale per mantenere il peso forma, quando mangiamo un piatto di pasta non mangiamo anche il pane e le patate, per esempio, oppure un po' meno pasta e un po' meno pane, ma insomma è meglio regolarsi così. Se ci sono le patate, evitare insomma facciamo delle scelte, ecco, no? Dobbiamo esatto. Sempre i carboidrati ci vogliono, sono essenziali, mai pensare di fare una dieta eliminando completamente la pasta e completamente il pane, perché sarebbe deleterio per i reni a lungo andare. Quindi i carboidrati ci vogliono, però vanno mangiati con criterio. Ecco, allora, a un direttore di Ecelode un augurio di un anno strepitoso. Ci sentiamo presto, Eliana, un bacio, complimenti. Grazie, un bacio a voi, saluti. E noi andiamo in casa di un altro direttore di un giornale che ci piace tantissimo e il dottor Confalonieri qua dice già che alza il dito perché lui è un lettore assiduo. Vuole sì, dirlo a lei? No, è un po' particolare, lo dico come introduzione. Sì. Siccome io spesso quando parlo con i miei pazienti, sia sportivi che per la dieta, dico applicate il modello Vanity Fair, cito già la rivista. In che senso? Che all'interno di questa rivista si trovano tutti gli ingredienti, quasi tutti di alta qualità, ma estremamente variegato. Ed è un po' la stessa scelta che dovremmo fare nella dieta, mettere dentro un po' di tutto, possibilmente di qualità, e nell'esercizio fisico. Alternare attività con caratteristiche diverse. Quindi mi viene un po' da ridere perché proprio uso questa similitudine. Siccome gran parte dei clienti conoscono la rivista, gli dico: hai presente la rivista? Ecco, uguale. Applichiamo lo stesso modello. E noi abbiamo il direttore di questa rivista che è citata proprio a modello di stile, che è Luca Dini. Luca, ciao. Buongiorno, buongiorno a voi, ciao. Dopo questa presentazione, uno si salutiamoci. Il professore abbia promosso la rivista perché a me boccerà sicuramente. Io razzolo malissimo. Oh, come mai? No, non è vero. Malissimo, però insomma, diciamo che da quando sono direttore, soprattutto, cioè, la direzione mi ha regalato due taglie in più, diciamo. Però magari eri magro. Sì, diciamo che stavo abbastanza bene. Purtroppo è sparito un po' il tempo per l'attività fisica, per lo sport, e infatti il mio buono proposito, in realtà già dall'anno scorso, la cosa buona che faccio, ho eliminato l'auto, sostanzialmente vado al lavoro a piedi tutti i giorni e quindi alla fine una buona ora di cammino abbastanza veloce. E devo dire che mi ha aiutato, mi sento meglio. Ti senti meglio? Senti, un altro sì. Piccolo buon proposito per il 2010, non dico per perdere le due taglie, ma proprio perché il professor Gianpietro diceva gradualità. Quindi no alla macchina, grandi passeggiate a passo veloce e poi? Ma poi devo dire che sto andando abbastanza, io vado abbastanza di centrifugati, frutta e verdura, quelli lì. Li consumo abbastanza, prometto di consumarne di più quest'anno. Ecco. Professor Gianpietro, un commento per questo direttore? Ma dobbiamo sempre incoraggiare tutti, quindi va bene così, continuare con questa strategia, cercare di correggere dei piccoli errori e soprattutto tenere da conto il consiglio di variare, di fare un'alimentazione completa che non trascuri nessuna categoria di alimenti. Se un alimento in particolare non piace, pazienza, insomma, l'importante è che le categorie dei vari alimenti siano rappresentate tutte con una certa regolarità e frequenza. È il momento adesso di anche recuperare degli alimenti diciamo che forse usiamo meno nel resto dell'anno, ad esempio anche approfittando del clima freddo, mangiamo qualche zuppa in più, il minestrone all'italiana così ricco, così pieno di virtù nutrizionali oltre che di sapore. E a proposito di sapore, non dimentichiamo mai che qualunque proposta, qualunque suggerimento che tenda a cambiare le abitudini alimentari non dovrà mai penalizzare il gusto, mai penalizzare il sapore, quindi anche alimenti come i legumi, ovviamente nelle giuste quantità, con condimenti leggeri, in questo senso l'olio extravergine di oliva a crudo è sicuramente il più indicato. Ecco, utilizziamo anche questi alimenti. Se sono già usati, bene, altrimenti proviamo un po' a inserirli. E anche sfruttare, diciamo, quella ristorazione veloce che offre insalate, che offre minestre, può essere sicuramente un suggerimento da consigliare, sperando che poi si riesca a metterlo in pratica. Anche gli alimenti di questo tipo conservati, surgelati per esempio, possono andare benissimo. Allora, sono Luca trigativi. Dini, diciamo, prima di salutarlo, Fatti Ispirare, la conosci? Quel modello di quella rivista che si chiama Vanity Fair, che ha di tutto, equilibrato, perfetto? Ecco, copia da lì. Grazie, un abbraccio a Luca Dini. Grazie a voi, grazie. Buongiorno. E noi andiamo a Bologna, c'è Angelo. Angelo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno Nicoletta e buon anno. Grazie. Io se vivessi a Bologna devo dire che farei poco moto e mangerei molto, quindi... secondo me è difficilissimo, ci sono posti dove essere magri, stare in forma deve essere veramente qualcosa di molto complicato. Bologna è sicuramente uno di questi. A lei com'è andata, Angelo? Beh, un pochettino come al solito, nel senso che la cucina di mamma ha la sua influenza e quindi tutti gli anni ci troviamo di fronte a questo dilemma. Infatti la mia domanda è filosofica, dico come mai si fa così presto ad acquistare peso e ci vuole così tanto tempo e impegno per perderlo? Bravo Angelo. Dottor Confalonieri, lei che fa sempre le domande agli ascoltatori, ecco Angelo che gliene serve una proprio per lei. Non risponde. Ma no, la domanda purtroppo è una delle grandi, la definita filosofica, è una delle grandi domande della vita, ma c'è una risposta comunque importante che poi sottende un'altra realtà che non dobbiamo mai dimenticarci. L'obiettivo fondamentale per cui noi viviamo è quello di sopravvivere, quindi la prima esigenza di cui tiene conto il nostro organismo è la sopravvivenza. Per cui nel momento in cui si riduce l'apporto alimentare, e l'organismo non sa che è una nostra libera scelta, ma registra una riduzione di apporto, reagisce immediatamente con una reazione di allarme. E quindi cosa fa? Aumenta l'assorbimento di cibo e riduce i consumi di base. Quindi la prima reazione a un regime dietetico è proprio quella di consumare meno. Ecco perché si fa fatica a perdere peso. Ed ecco il motivo per cui qualsiasi approccio dietetico dovrebbe essere graduale e soprattutto dovrebbe essere costante nel tempo. Perché tanto più le diete sono rigide e durano poco, tanto più scateniamo questo effetto e quindi nel lungo termine otteniamo soltanto il risultato di mangiare sempre meno e ingrassare sempre più. Angelo, un saluto a lei e alla splendida cucina della sua mamma. Mi sembra che la sua mamma cucini davvero bene. Buona giornata. Noi andiamo a sentire i mercati, poi il meteo e poi di nuovo insieme. 824 0024, tra poco. Essere e benessere. E riprendiamo con i buoni propositi. Obiettivo: tornare in forma con gradualità. Abbiamo tutto il tempo. Le strade percorribili però sono due: attività fisica, che tra l'altro giova anche all'umore, il che non guasta, e stile alimentare vario ed equilibrato, di cui insomma non si scappa. Ciascuno di noi però può dosare questi due ingredienti per trovare la formula più utile, più a misura. Potrete suggerirci sicuramente la vostra. 824 0024 con i nostri esperti evidenzieremo i punti di forza oppure le criticità. Nell'attesa delle vostre chiamate però noi ci colleghiamo con il professor Pierpaolo Di Fiore, che è professore di patologia generale all'Università di Milano e ricercatore della Fondazione di Oncologia Molecolare. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. E buon anno. Grazie, auguri a tutti. E iniziamo, professore, l'anno con una bella notizia che arriva dalla ricerca e che sembra segnare un passo importante nella diagnosi e nella cura del tumore al seno. La svolta consiste nell'essere voi riusciti a marcare, quindi a quantificare il numero delle cellule staminali presenti nel tumore. Che è successo? Sì, è proprio così. Noi siamo partiti dalla conoscenza che le cellule staminali sono il motore che alimenta il tumore. Sì. Il problema principale delle cellule staminali è che sono difficili da studiare perché sono pochissime. Noi siamo riusciti a sviluppare una metodologia che è anche abbastanza semplice, un po' un uovo di Colombo, per poterle purificare e renderle omogenee e quindi poterle studiare. E sulla base di questa metodologia abbiamo poi compiuto una serie di studi e altri ne verranno ancora, perché adesso il metodo, diciamo, è disponibile per tutti quanti, che ci hanno aiutato a capire delle cose abbastanza importanti nel tumore del seno. Il problema... Sì, no, dicevo, ad esempio? Ma il problema principale nel tumore del seno è la eterogeneità. Che significa eterogeneità? Significa che tutti i tumori del seno sono diversi fra di loro, non proprio individualmente, ma per gruppi, diciamo. E questa eterogeneità rende difficile sia una volta fatta la diagnosi stabilire esattamente la prognosi, cioè il decorso se un tipo di tumore è più aggressivo di un altro e via dicendo, sia stabilire esattamente l'orientamento terapeutico, perché chiaramente per tumori più aggressivi noi vorremmo terapie più aggressive. Non è che oggi non ci si riesca, ma la cosa è resa complicata da questa eterogeneità. Quello che noi abbiamo scoperto è che in realtà tutta questa eterogeneità si può ridurre a un unico concetto, che è il numero delle cellule staminali. Sì. Quante più cellule staminali ci sono nel tumore, tanto più il tumore è aggressivo. Professore, quindi è già sull'uomo questa ricerca e quindi ci sono delle prospettive molto interessanti. Questa è una ricerca che è stata completamente condotta sull'uomo e ha delle prospettive sia dal punto di vista di una migliore diagnosi sia dal punto di vista della terapia. Dal punto di vista di una migliore diagnosi, contando le cellule staminali del tumore, noi saremo in grado di predire meglio il futuro della malattia nel singolo paziente. Dal punto di vista terapeutico, stabilendo il numero di cellule staminali nel tumore, noi siamo in grado di stabilirne l'aggressività e quindi anche di adoperare le terapie che abbiamo oggi in maniera più efficace, cioè di poter dare terapie più aggressive appunto a pazienti che hanno malattie più aggressive. E da ultimo c'è un qualcosa che è un po' ovviamente di là da venire, perché fa parte ancora del regime di scoperta, è che avendo purificato le cellule staminali noi siamo in grado ora di cominciare a usarle per sviluppare farmaci specifici per le cellule staminali, dai quali speriamo di ottenere molecole e farmaci ad elevato effetto di killing nei riguardi del tumore, cioè che uccidano le cellule del tumore in maniera molto efficace senza effetti collaterali. Professore, quindi il futuro che sembra rosa, almeno iniziamo il 2010 con una buonissima notizia. Insomma, l'anno inizia con una buona notizia, soprattutto per la ricerca italiana, perché queste cose ovviamente sono un po' patrimonio generale della ricerca della nazione. Senza falsi trionfalismi, senza facili ottimismi, però insomma la ricerca continua a contribuire a far avanzare la nostra capacità di combattere il cancro sempre più efficacemente. Professore, buon anno e buona ricerca, grazie per essere stato con noi. Grazie e buon anno a tutti voi. E noi torniamo al tema del giorno, torniamo a rimetterci in forma e parliamo insieme al professor Remuzzi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Perché, professor Remuzzi, c'è una cosa: noi donne accumuliamo più facilmente i chili nelle zone che meno ci piacciono, ma c'è una ricerca curiosa. Sì, è una cosa molto curiosa. Le donne che hanno avuto una gravidanza tendono ad aumentare di peso, questo lo si sa, è una cosa ben conosciuta. Invece c'è un dato nuovo e sorprendente, viene dall'Australia. Ricercatori australiani hanno scoperto che anche le donne che non hanno figli, ma hanno nella vita un compagno, un marito, un compagno, tendono a mettere su peso più di quanto non capiti alle donne che vivono sole e che non hanno figli. Quello che hanno fatto questi ricercatori, il lavoro è appena pubblicato, proprio 2 giorni fa, hanno seguito per 10 anni più di 6.000 donne giovani. Al termine del periodo di osservazione, le donne che avevano avuto figli pesavano circa 10 kg in più, quelle che vivevano con un compagno 7 kg in più, sì, mentre quelli che erano senza figli e senza partner aumentavano soltanto di 4 kg. Allora, la gravidanza modifica la fisiologia, modifica il metabolismo, modifica gli ormoni, allora queste sono cose che si capiscono, uno sì, acquista peso in gravidanza anche per accomodare il bambino, ci vogliono una serie di modificazioni di tutto quello che abbiamo detto e poi questi chili si fanno un po' fatica a smaltire. A buttare giù, sì. Ma questo non spiega perché ingrassano di più anche le donne sposate o le donne che hanno un partner o un compagno rispetto a quelle non sposate. Questo no, non può, non ci sono delle modificazioni metaboliche o della fisiologia, dell'organismo, ormonali per avere un marito o un compagno. Quello, insomma, pensiamo che non ci sia. Allora si vede che si modificano i comportamenti. Il fatto, certo, di avere un marito o un compagno modifica. Naturalmente non c'è la soluzione. Insomma, la colpa problema è sempre vostra, professor Remuzzi. Non lo so. In effetti, nell'immaginario collettivo, quelle che si chiamavano un tempo, non ci sono più le zitelle, erano secche secche, magre magre. Dottor Confalonieri. Io indubbiamente un'idea ce l'avrei, e se noi guardiamo la frequenza tipo di un centro sportivo, le donne sole o non sposate o comunque con una situazione sentimentale non risolta sono sicuramente la grandissima parte. Quindi indubbiamente c'è una pratica sportiva molto più diffusa tra chi non è sposato, accoppiato con dei figli, quindi se lo sport porta a dimagrire sicuramente questo può spiegare in parte la cosa. E poi probabilmente qui sono io a farvi una piccola critica, la donna sola è più attenta al proprio corpo, non fosse altro perché ancora una donna in ricerca, la donna accoppiata forse lo è un po' meno. Ma professor Giampietro, cosa... io avrei posto? Certo, io avrei un'altra spiegazione forse. Forse le parole del collega sono anche esatte, ma io aggiungerei anche proprio un elemento così di carattere sociale, cioè la persona sola, che sia un uomo o una donna, tende a aumentare le occasioni di contatto sociale, di rapporti sociali, e spesso la palestra, il gruppo sportivo, il parco dove si fa attività fisica è un'occasione, un'opportunità per conoscere un ipotetico partner, una ipotetica compagna. Quindi è chiaro che si è più invogliati, poi ci sono dei condizionamenti legati agli impegni familiari, una donna sposata spesso ha necessità, così come l'uomo d'altronde, ha necessità di accudire alla casa, ai figli, fare la spesa eccetera, e quindi sottrae tempo ad un'attività fisica che sicuramente risulterebbe poi di grande beneficio per la salute e anche per l'aspetto fisico. Professor Remuzzi, l'avevo... partner, quindi bisogna dare il meglio di sé e anche la forma fa la sua parte. Professor Remuzzi, l'avevo interrotta. No, noi non abbiamo la spiegazione per adesso, non è stato studiato. Quello che è stato detto prima è certamente molto vero, l'attività fisica. Le componenti dell'aumento di peso sono due, l'attività fisica e quello che uno mangia. Sì. Allora, io credo che uno che ha un compagno, un partner, insomma, forse questo partner vuol mangiare un po' bene, abbiamo ancora una società in cui il cibo lo prepara la donna in casa, e allora mangia in modo diverso, si mangia di più, si mangia meglio, si beve un bicchiere di vino in più, si sta in compagnia, insomma, forse l'alimentazione e il tipo di alimentazione, il fatto che uno si voglia far preparare una cena buona dalla moglie o dalla compagna, insomma, questo qui è importante, l'alimentazione penso che giochi anche un ruolo. E le abitudini alimentari sono diverse probabilmente tra chi ha un compagno e chi vive solo. Professor Remuzzi, quindi i casi possono essere o vi sfidanzate, oppure cercate di far cucinare anche un po' il vostro compagno, magari vi mettete insieme in cucina adottando uno stile alimentare che sappia coniugare gusto e salute. La terza cosa è, se volete mantenervi in coppia, provate, come abbiamo suggerito più volte, a scegliere un'attività sportiva da praticare in coppia. Anche questo magari può, invece che stare tanto a tavola, vi alzate un pochino prima e andate a fare una corsa. Professor Remuzzi, noi ci sentiremo per una puntatona sui reni lunedì. Certo. Magnifico, speriamo che lei possa venire in studio. Sì, sì, probabilmente riesco a venire. Va bene, allora intanto l'aspettiamo, la prendo, guardi che ormai mi ha fatto una promessa. Allora, professore, noi ci sentiamo lunedì, grazie. Grazie, grazie a voi. E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi consigli per rimanere o recuperare la forma persa durante le feste, non solo. A tra poco. Essere e benessere. Devo dire che la ricerca di cui ci ha parlato il professor Remuzzi vi ha scatenati. Cesare mi scrive: Nico, speriamo che mia moglie non sia all'ascolto, altrimenti mi dà la colpa anche per il suo sovrappeso. Oppure Marina ci scrive: ma l'aumento di peso da relazione stabile riguarda anche e soprattutto gli uomini. Chi non ha avuto amici maschi che dopo essersi accasati si sono anche rilasciati e quindi hanno preso la classica pancetta, no? Del papalotto. Sicuramente sì, però l'indagine l'ha fatto sulle donne, abbiamo parlato delle donne, ma però voi assolutamente siamo consapevoli di questo. Professor Giampietro. Cosa dire? L'attività fisica è certamente importante, non c'è niente da fare. Sì, poi ci sono tutti questi condizionamenti sociali, le abitudini, quando si sta in bene ci si rilassa e quindi si prova anche piacere ancora di più dal cibo. E il cibo è una fonte fondamentale, insostituibile di piacere sotto tutti i punti di vista, insomma anche per le sostanze che il nostro organismo produce proprio per effetto dello stimolo indotto dal cibo, o anche per le sostanze contenute nel cibo stesso che hanno un effetto rilassante, un effetto calmante. Pensiamo ai carboidrati che fanno aumentare la serotonina, quindi hanno un effetto antidepressivo. Mai togliere, come giustamente si diceva prima, i carboidrati dalla dieta e mantenerli sempre piuttosto in elevata come quota generale, almeno la metà delle calorie devono venire da questi carboidrati. Ma poi ci sono anche alimenti tra virgolette incriminati, ingiustamente pericolosi, lo diventano solo quando ne consumiamo quantità abbondanti, che addirittura forniscono delle sostanze in grado di stimolare il nostro sistema nervoso come se fossero delle sostanze stupefacenti, degli oppioidi. Pensiamo alla cioccolata, insomma, che ha un effetto splendido, tanto splendido che anche recenti ricerche addirittura ne sottolineano l'efficacia nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Chi consuma regolarmente cioccolata sembra essere protetto più di chi non lo fa dalle malattie cardiovascolari. Quindi gli alimenti sono fondamentali. È chiaro che bisogna usare, come abbiamo sempre detto, il buon senso, non eccedere, consumare con regolarità di tutto. Adesso mi veniva in mente per esempio un'abitudine classica delle feste natalizie, il consumo della frutta secca, le noci, sì, le nocciole. Ma quelle sono un patrimonio enorme da un punto di vista nutrizionale, sono ricche di sostanze fondamentali, gli acidi grassi essenziali, i cosiddetti omega 3 o più correttamente N3, li andiamo a cercare negli integratori invece, e poi ce li abbiamo a disposizione. 5 noci al giorno le prenderemmo tranquillamente, certo, la quantità necessaria per il nostro. Il problema è che spesso la frutta secca, un po' come le ciliegie, una tira l'altra e noi le mangiamo dopo un pasto molto abbondante, chiacchierando con gli amici, per cui ne mangiamo troppo. Invece sarebbero da recuperare, inserite in uno stile alimentare corretto dopo l'attività fisica. Ma io vorrei dare la parola a Federico dalla provincia di Vicenza. Abbiamo Renato da Pordenone, ho qualche messaggio da leggere, quindi Federico, buongiorno. Buongiorno. Com'è andata, Federico? Beh, innanzitutto buon anno e complimenti per la trasmissione. Grazie, Federico, lei è gentile. Niente, io è da circa 2 anni che vado a correre. In media 5 giorni alla settimana, 1 ora per volta. Caspita, è il dottor Confalonieri. È allenatissimo, non avrà problemi a gestire anche... Sarà un fascio di muscoli, Federico, lei? No, no, ho perso tanti chili in questi 2 anni, diciamo, 10 chili, andando a correre. E però ho visto che con la corsa riesco a mangiare un po' di tutto e mi mantengo sempre in forma, diciamo. È quello, questo è un po' il segreto, dottor Confalonieri. È quello che stavamo dicendo, sicuramente questa abitudine continuata e perpetuata anche durante le vacanze consente di concedersi degli eccessi, di stare a tavola senza farsi troppi pensieri e di ritrovarsi comunque in peso forma, oltre che avere un effetto benefico ovviamente a livello di pressione arteriosa e di apparato cardiovascolare in genere. Quindi per Federico direi che le feste non sono sono un problema. E Federico esce e corre, ma Connie, che ci scrive ho 47 anni sovrappeso, ci chiede se la cyclette è utile e come può usarla, e perché lei ha poco tempo, quindi la cyclette la trova a casa e magari alla sera o prima di andare di uscire alla mattina fa qualche pedalata. Possiamo utilizzarla per rimetterci in forma, dottor Confalonieri? Con che schema? Sicuramente sì, una delle attività più indicate. Diamo due consigli molto pratici e molto sintetici. Il primo: prendete la vostra frequenza cardiaca a riposo, ipotizziamo che sia 70, e aumentate la vostra frequenza della metà, quindi 70 più 35, 105. Vi mettete a pedalare a 105 di frequenza cardiaca per circa 20 minuti. Dovrebbe essere un'attività molto blanda e sicuramente ha un buon effetto. Secondo consiglio: alternate invece 30 secondi in cui pedalate con una frequenza di pedalata, quindi una velocità di movimenti molto elevata, e un minuto in cui pedalate molto piano, sempre con una bassa resistenza. Il tutto lo fate ancora per 15-20 minuti. Alternate questi due programmi per un totale di 4 volte a settimana e vedrete che la cyclette farà miracoli. E poi chiamateci dopo quanto? Dopo 4 settimane vediamo come va. Va bene, andiamo a Pordenone. Renato, buongiorno a lei, auguri. Buon auguri, grazie Nicoletta e anche ai suoi ospiti. Niente, io chiamavo per avere alcune delucidazioni, se si può. Niente, nel mio caso io non mi faccio l'autista, 3 volte alla settimana faccio Pilates, 2 volte alla settimana, poi quando posso esco faccio walking. E niente, il mio problema è questo: il giorno dopo io accuso una fame che da squalo. Il mio problema è questo. C'è uno squalo a Pordenone. Che non so come risolvere il problema, appunto. Cioè, perché io rinuncio, poi il giorno dopo lo devo rimangiare, perché sennò sto male. E pian pianino il peso aumenta invece che diminuire. Renato, lei è troppo simpatico. Allora, professor Giampietro, si può occupare di questo squaletto di Renato? Assolutamente sì, diamogli qualche suggerimento. Intanto, vabbè, chi fa attività fisica consuma più energia e poi diciamo è indotto anche ad un aumento della quota di cibo che mangia. Però ecco, in questo caso bisogna scegliere bene il cibo. La fame è una sensazione fisica di vuoto allo stomaco. Riempiamo questo stomaco con alimenti che hanno un basso apporto di calorie e di energia, quindi ecco che le verdure in particolare, anche scondite, la ricchezza degli ortaggi di questa stagione ci aiuta tantissimo. Sì, però professor Giampietro, tante volte uno ha bisogno anche un po' del gusto, perché... Ma dobbiamo mangiare degli ortaggi freschi, ben, diciamo, raccolti nel periodo giusto dell'anno e possibilmente diciamo in zona, in modo tale da poter sperare in un sapore migliore, perché insomma una bella insalata ha un gusto decisamente confortante. Certo, rispetto ad un piatto di polenta con dei funghi e delle salsicce, quello sì, sicuramente rimane un po' penalizzato. Però se vogliamo mettere un po' di ordine, aggiustare un po' la nostra forma fisica, qualche diciamo così, qualche piccolo consiglio, qualche piccolo sacrificio tra virgolette lo dobbiamo fare. E quindi io direi sicuramente aumentare il consumo di questi prodotti. Sì. Un minestrone, come dicevo prima, è saporito di suo, a volte non occorre, se cotto bene, cioè senza far cuocere le verdure troppo a lungo, può essere Renato, anche senza olio, senza condimento. Ma diciamo anche che si possono fare delle belle insalate ricche con tanti prodotti e saziarci in questa maniera. Renato, lei è disposto a questo sacrificio? Di che cosa le viene fame? Di polenta concia? No, io mangio, le premetto, io quando mangio un'insalata mista a carote con cereali o legumi. Io è quello già che quello che ha detto il professore, io lo faccio già, preferisco i minestroni che ha carboidrati, pasta asciutta e così via, però vedo che non ottengo i risultati sperati, insomma, ecco. Dottor Confalonieri, vuole aggiungere un ultimo consiglio per Renato? Ma mi rifarei al consiglio già dato precedentemente: fare più pasti, mi sembra assolutamente necessario. passare da 3 a 5 pasti in modo che non si arrivi mai a livelli di fame elevata e iniziare sempre il pasto magari con un po' di frutta in modo tale che questa consenta poi di ridurre l'appetito quando si prendono cibi più calorici. Allora, dottor Confalonieri, il discorso della metà dei battiti sì, di cui lei ha parlato per la ciclette di Conny vale anche per le camminate sul tapis? Rulando, sì, vale immagino. In genere, diciamo che è un metodo molto semplice, molto empirico, poco scientifico, ma assolutamente affidabile se uno vuole stabilire un'intensità di sforzo che sia correlata alla sua capacità cardiaca e sia sicuramente di tipo aerobico e con un consumo prevalente di grassi per la produzione di energia. Quindi vale per qualsiasi tipo di attività fisica. Anche qualunque. Sì. Allora, professor Gianpietro, io la ringrazio per essere stato con noi, quindi grazie gradualità e... prendiamoci tempo, diete equilibrate, sì. Attività fisica. Prendiamoci tempo e prendiamoci gusto del vivere. Bene, questo mi sembra assolutamente importante, è un tasto su cui insiste sempre anche il dottor Confalonieri, che saluto e ringrazio. Sì, ci vedremo venerdì. Speriamo di sì. Speriamo di sì. Noi invece domani ci diamo appuntamento nella nostra casa, questa casa non è un albergo, a mezzogiorno e con la salute torniamo come sempre lunedì dopo il GR delle 11. Vi saluto. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Radio 24. La passione si sente.